Buongiorno, il programma prevede di parlare di fissazioni del dovere alla disordinazione sociale, nonché dei problemi biblici e della forma degli angeli.